ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica. La bici sta vivendo davvero un periodo di gloria in questi mesi e nel 2020 si calcola che ci sarà un boom di vendite di biciclette. Si stima un 25% in più rispetto al 2020 grazie al bonus bici, ma non solo. E noi torniamo a parlare proprio di questa misura perché sono arrivati pochi giorni fa i chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente per capire come ottenere questo rimborso e soprattutto se sarà possibile estenderlo a tutti coloro che lo richiedono. Ne parliamo con il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora ministro, sono arrivate le tanto attese istruzioni del Ministero dell'Ambiente per ottenere lo sconto per l'acquisto di bici anche elettriche e di altri mezzi della micromobilità elettrica, 500 euro per il 60% della spesa, una misura che sembra essere molto apprezzata dai cittadini che però si pongono ancora alcune domande sulle modalità di rimborso, sulla possibilità poi di riscuotere questo bonus. Allora cerchiamo un po' anche di sciogliere questi dubbi. Innanzitutto voi avete previsto due fasi. Sì, abbiamo previsto una fase che è questa immediata per poter subito dare soddisfazione ai tanti cittadini, e veramente sono tantissimi in Italia, che vogliono acquistare la bici e quindi vanno praticamente dal venditore, l'acquistano anticipando tutta la cifra, e poi noi attraverso il portale del Ministero dell'Ambiente e una società del Ministero dell'Economia, si chiama Sogei, restituiamo telematicamente la quota spettante. La seconda fase, non appena il sistema gira, come si suol dire, lo faremo fare invece questo al commerciante, e quindi il cittadino già troverà la bici scontata. Mi sembra anche un modo molto rapido, perché l'abbiamo costruito tutto in modo digitalizzato utilizzando lo SPID, e di conseguenza anche le risorse e i soldi arriveranno ben presto. Quindi se io oggi compro una bici, mi devo far rilasciare la fattura, devo aspettare che verrà caricato questo portale, quando otterrò il rimborso? Intanto confermo che la fattura, confermo anche che la fattura la può richiedere chiunque, non è che devi essere titolare di una partita IVA per averla, ovviamente deve essere titolare della partita IVA chi te la dà, fuori discussione. E detto questo, noi adesso abbiamo già approvato il decreto ministeriale per i rimborsi, per la procedura amministrativa, e al vaglio del Ministero dell'Economia. Pochi giorni il portale è pronto e daremo le istruzioni dettagliate, già abbiamo delle FAQ. Io dico semplicemente seguite il portale del Ministero dell'Ambiente, perché a quel punto ci sarà proprio lo step by step, posizione 1, 2, 3, 4, chiunque fa come si deve muovere. E sarà un rimborso quindi in tempi rapidi, lei dice, più o meno, insomma, una questione di... Sì, una volta che caricato ovviamente la fattura, i tuoi dati anagrafici, gli elementi che sono da portale appunto, poi semplicemente il leggi e paga che farà questa società del Ministero dell'Economia nel giro, poi una volta fatto tutto questo, nel giro di pochi giorni, 2, 3, 4, una settimana massimo. E saranno soldi, perché molti dicono ma mi arriverà un buono per comprare altre cose. No, sono soldi sul conto corrente, giusto? Sì, sono soldi. Uno, nel momento in cui si registra, mette l'IBAN sul quale intende avere questo rimborso, e sono soldi materiali, certo. Ecco, voi avete fatto un po' di calcoli su quante bici riuscirete a finanziare, quali effetti potrà avere questo incentivo sull'acquisto di bici? Insomma, c'è una grande voglia di andare in bicicletta, di acquistare le biciclette adesso in questa fase 2, no? In cui insomma bisogna rispettare il distanziamento sociale e quindi insomma i negozi sono pieni di richieste. Secondo voi quante bici riuscirete a finanziare con questa misura? Guardi, io le confermo che c'è veramente tanta voglia. Noi sapevamo che l'italiano ha una grande passione per la bicicletta, qualsiasi tipo di bicicletta, non necessariamente quella da corsa, non necessariamente una mountain bike, ma una city bike. La bicicletta è una passione antica, e stiamo notando che veramente c'è la fila davanti ai negozi per poter acquistare, informarsi o che altro. Detto questo, noi abbiamo stanziato 120 milioni di euro, che era la cifra che di più non avevo praticamente in cassa, tutto quello che avevo, perché ci credo fino in fondo. Noi contiamo di finanziarne non meno di 300-400-500 mila, dipende poi chiaramente dal bonus se lo sfrutti tutto in quota parte, e siamo convinti che i soldi chiaramente verranno tutti quanti assorbiti, e per questo io ho già fatto un appello al Parlamento, visto che sta girando tanto bene questa norma, c'è tanta voglia e passione, magari se mi incrementano un attimino anche i fondi, il Parlamento lo può fare nella conversione del decreto rilancio. Se il Parlamento mi aiuta pure con una cinquantina di milioni, avendo la disponibilità dei 55 miliardi ci sta qualcosa, io ne sarei solo lieto ovviamente. Voi insomma sperate in un rifinanziamento, perché sennò qualcuno insomma dice io ho il timore di restarne fuori, perché poi di fatto chi prima arriva meglio alloggia, no? È questo un po'... Certamente c'è un tema cronologico, chiaramente c'è anche una forma di rispetto nei confronti di chi acquista prima, però non è che adesso bisogna scapicollarsi da questo punto di vista, l'importante è che c'è la voglia e noi troveremo il modo di sostenere questo desiderio. Qualcuno mi ha anche contestato e ha detto no, ma magari è una frivolizza, invece io dico di no, questa è una voglia appassionata che ci proietta in un altro modo di concepire la mobilità, questa è l'elemento forte e mi piace per rammentarlo e ricordarlo qui. L'italiano ha capito che la bicicletta non è soltanto la passeggiata, per dirla, del sabato e la domenica, che pure è importante, è il modo diverso di muoversi nella città. Perché? Perché in questo modo decongestioni il traffico, inquini di meno, hai ovviamente un ritorno di un aspetto della salute, e in questo momento poi tra l'altro di distanziamento sociale aiuta di più, perché chiaramente sui mezzi pubblici c'è un accesso più limitato, e allora è un insieme, un modo diverso. Lei quante volte siamo andati, lei, io, che tutti gli ascoltatori siamo andati nelle grandi capitali europee, abbiamo visto tante biciclette sfrecciare dicendo beh come sono, come è bello, come lo vorrei fare anch'io. Adesso è arrivato il momento, si può fare. Ecco, però molte associazioni ambientaliste dicono ma insomma ci voleva una pandemia per farci scoprire che la bicicletta può essere una soluzione per le nostre città. Beh guardi, io avevo in un altro modo, cioè intendo dire, la pandemia è stata una tragedia, è ancora una tragedia per i morti, è una tragedia economica, è una tragedia, punto. Però è anche vero che da una grande crisi può nascere un grande risveglio. Allora cogliamo il lato positivo. Il lato positivo è che si incomincia a parlare di green fino in fondo, il bonus bici, il bonus facciate per esempio, la rigenerazione edilizia, è tanto green che finalmente si affaccia, e io guardo lì. Il Premier Conte ha invitato, no, gli italiani ad andare in vacanza in Italia. Lei come Ministro dell'Ambiente, abbiamo parlato appunto di svolta green, si sente di rivolgere lo stesso invito e magari per una vacanza sostenibile, magari anche in bicicletta? Sì, io raccolgo l'invito che ha fatto il Premier, peraltro col Premier ne abbiamo parlato, sicuramente rimaniamo in Italia, aiutiamo l'Italia. Io aggiungo, andate a fare o cicloturismo o comunque ecoturismo, specialmente per esempio nei parchi nazionali. Noi stiamo chiudendo, guardi, una bella iniziativa, mi piace dare questa news qui con lei, e cioè noi abbiamo chiuso un protocollo d'intesa col Club Alpino Italiano, il CAI, che conta 320.000 volontari, perché insieme a loro stiamo rigenerando tutto il sistema della sentieristica dei parchi nazionali. È un modo diverso di vivere il turismo e di godere della natura nel rispetto di entrambe le cose. E quindi insomma bicicletta magari o anche a piedi, insomma anche per le nostre vacanze. E un'ultima cosa, Ministro, se lei dovesse comprare una bici adesso, che bici comprerebbe? Beh guardi, io già ho una vecchia bici a cui sono affezionato, a pedalata ordinaria, diciamo così, che uso appena posso e lo faccio con piacere. Adesso che magari non sono più un ragazzino e i muscoli non sono più quelli di prima, io penso di acquistare una bici a pedalata assistita, così in un modo o nell'altro sono tutte e due le bici e sono contento così, e ci cammino anche perché ci si può andare tranquillamente al lavoro. Io abito occasionalmente da ministro a Roma, ma di fatto sono napoletano, e quindi quando è il momento andrò al lavoro a Napoli, quando finirò di fare il ministro, con la bici. Bene, allora grazie mille, grazie, buona grazie giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori. tutti gli altri dettagli sul bonus bici potete trovarli sulle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente. Tra gli ultimi chiarimenti, l'estensione dell'incentivo anche all'online e all'usato, come sappiamo incentivo utilizzabile da maggiorenni residenti nei capoluoghi di provincia o nei comuni sopra 50.000 abitanti, incentivi che possono rappresentare un volano per il settore bici, secondo ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori di Confindustria, che stima un aumento di vendite nel 2020 per effetto del bonus di circa il 30%. Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo. Noi come categoria, come vendita, non abbiamo una grande tradizione di bonus, di incentivi. L'unico aneddoto che possiamo raccontare è l'incentivo del 2009. Nel 2009 ci furono concessi degli incentivi all'acquisto e allora riscontrammo che a fronte di quasi 110.000 biciclette incentivate, poi l'effetto sul mercato fu del triplo. Riscontrammo 300.000 l'aumento di vendite durante il corso dell'anno, quindi con tanta gente che poi tornava nei negozi, chiedeva l'incentivo, naturalmente erano finiti, però poi con negozianti in qualche modo si trovava un accordo commerciale. Bene, allora continueremo a seguire il tema del bonus bici. Vi lasciamo qui con la quartina di Alessandro Ricci, del nostro ciclo poeta. Grazie Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Alla prossima domenica. Le autostrade un giorno saranno lunghe ciclabili a quattro corsie. Casello casello pedaleranno amici nonnetti, parenti e zie.